Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Scandalo intercettazioni in Gran Bretagna, ha arrestato l'ex portavoce del Premier Cameron. Nel 2013 non mi ricandiderò, dice oggi su Repubblica Berlusconi, al mio posto Alfano. Telecom ha acquistato la brasiliana AES Atimus per 700 milioni di euro. Al via l'esodo verso le vacanze, la benzina va sempre più su. Buongiorno da Marta Cagnola e dalla redazione. In apertura alle notizie che arrivano dalla Gran Bretagna, con l'arresto questa mattina dell'ex direttore di News of the World ed ex portavoce del Premier Cameron. Intercettazioni e pagamenti illegali alla polizia. Sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di Andy Coulson. Ad annunciarlo Scotland Yard. L'ex direttore del News of the World, il tabloid di proprietà del magnate Rupert Murdoch, nonché ex portavoce del premier britannico David Cameron, si era presentato stamani alla stazione centrale della polizia di Londra per essere interrogato sullo scandalo intercettazioni che ha travolto il giornale. Coulson è sospettato di essere stato a conoscenza delle intercettazioni telefoniche illegali condotte per conto del tabloid durante il periodo della sua direzione dal 2003 al 2007. Oltre alle conseguenze giudiziarie, lo scandalo ha un'evidente ricaduta politica determinata dagli stretti rapporti tra Coulson e Cameron. And I take full responsibility for every single thing I do and people will have to reach their own conclusions. Il premier britannico, parlando stamani in conferenza stampa, ha detto di assumersi tutta la responsabilità della nomina di Andy Coulson quale suo portavoce ed ha annunciato l'apertura di un'inchiesta attraverso una commissione indipendente. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore. In Italia fa discutere l'intervista oggi su Repubblica del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in diretta Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, Berlusconi sceglie proprio il giornale a lui più lontano per annunciare che nel 2013 non si ricandiderà Palazzo Chigi, il candidato sarà Angelino Alfano e nei pensieri del Premier non ci sarebbe nemmeno il Quirinale per il quale sosterrà Gianni Letta. Una sorta di testamento politico rispetto al quale arrivano già le prime reazioni dal PDL. Cicchitto minimizza e bolla il tutto come una conversazione a ruota libera, aggiungendo che per il futuro è molto difficile fare previsioni, mentre per il ministro per l'attuazione del programma Rotondi, Berlusconi come De Gaulle in Francia segna il presente e l'avvenire della politica italiana a prescindere se è impegnato o no in prima persona. L'opposizione invece ne approfitta per lanciare un nuovo affondo. L'intervista di Berlusconi, dice Enrico Letta del PD, è l'ennesima dimostrazione della stagione crepuscolare di Berlusconi che è finito solo e ancora non se ne rende conto. Mentre i futuristi leggono questo passaggio di testimone come l'apertura di un possibile nuovo quadro politico con una convergenza delle forze riformiste e moderate. E da Montecitorio tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Occhi puntate anche sul ministro Tremonti il giorno dopo le rivelazioni emerse dall'inchiesta in cui è coinvolto il suo ex braccio destro Marco Milanese, per il quale la Procura di Napoli ha chiesto l'arresto. In quella casa ero solo ospite 3 giorni a settimana, la mia unica abitazione è a Pavia, per ovvi motivi di opportunità cambierò subito sistemazione. Con una nota a tarda sera il ministro dell'Economia Giulio Tremonti si è difeso così dalla bufera che lo ha investito nelle ultime ore. Le pesanti accuse a carico del suo storico uomo di fiducia Marco Milanese, per il quale la Procura di Napoli ha chiesto l'arresto, hanno gettato un'ombra anche su di lui a causa del particolare emerso nelle carte dell'inchiesta. Quella casa nel centro storico di Roma dove alloggia Tremonti, 8.500 euro al mese di affitto pagati da Milanese. Ho accettato l'offerta dell'onorevole per l'utilizzo temporaneo di parte dell'immobile, una sola camera, ha spiegato il ministro, che nei corridoi di palazzo, scrivono oggi i giornali, parla apertamente di una strategia politica contro di lui. I rapporti finanziari tra Tremonti e Milanese sono assolutamente poco chiari, scrive il GIP nelle 73 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'ex consigliere politico del ministro. I loro rapporti, si legge ancora, sono tuttora così stretti da giustificare il pericolo di inquinamento probatorio da parte di Milanese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore. E anche la posizione di Tremonti indebolisce Piazza Affari. Facciamo il punto con Deborah Rosciani. Deborah. Sì, buongiorno. Borsa europea in frenata al giro di boa della metà seduta mentre sale l'attesa per la pubblicazione dell'importante dato statunitense sul mercato del lavoro e Piazza Affari ancora una volta conferma la sua posizione di maglia nera d'Europa. È stata una settimana molto difficile per Milano, risente della pressione delle vendite sulle azioni bancarie Unicredit stamattina è scivolata di 6,5 punti, risentendo delle voci circa un imminente aumento di capitale. Al momento la banca non ha ancora parlato, ma il titolo è finito anche in asta di volatilità. Altro segnale della tensione che c'è sul mercato italiano, il BTP decennale ha fatto salire ancora il proprio rendimento, mentre si è allargato lo spread con il Bund tedesco, il differenziale di rendimento con il titolo di Stato tedesco per l'appunto. In mattinata ha raggiunto un nuovo picco record di 228 punti, pertanto i rendimenti dei titoli decennali italiani sono saliti sopra il 5%, anche questo un segnale della forte tensione che sta investendo il mercato italiano. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. E Telecom Italia rafforza la presenza in Brasile con l'acquisizione del gruppo brasiliano AES Atimus della compagnia brasiliana d'energia per 700 milioni di euro. AES Atimus, proprietaria di una rete in fibra ottica con un'estensione di 5.500 km, ha chiuso il 2010 con un fatturato di 211 milioni. Per le famiglie italiane le cose non vanno al meglio. I numeri dell'Istat confermano che la ripresa di questo inizio 2011, per quanto modesta, nelle case degli italiani non si è vista. Nel primo trimestre di quest'anno il reddito disponibile delle famiglie è rimasto fermo rispetto al trimestre precedente. La crescita è solo su base annua, più 3,3% rispetto ai primi tre mesi del 2010. L'andamento del potere reale d'acquisto è ancora più timido. In calo dello 0,8% rispetto all'ultimo trimestre 2010, cresce solo dell'1%. 1% su base annua. Quanto ai comportamenti economici nei primi tre mesi dell'anno, le famiglie del bel paese hanno ridotto di poco la loro propensione al risparmio rispetto al trimestre precedente, che è ferma di fatto su base annua. Cresce invece la spesa per i consumi, più 0,9% rispetto al trimestre precedente, più 3,1% su base annua. Tuttavia, questa piccola ripresa degli acquisti pare già finita. I primi dati del secondo trimestre comunicati nei giorni scorsi hanno già evidenziato un rallentamento. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cominciano con un'amara sorpresa anche le vacanze di molti italiani che si stanno mettendo in macchina in queste ore. Nuovo record oggi dei prezzi dei carburanti, con la benzina che tocca nei distributori Eni 1,621 euro al litro. A Catania l'inaugurazione di un nuovo impianto fotovoltaico, ci racconta tutto in diretta Laura Bettini. Laura. Sì, buongiorno a tutti, è stato inaugurato oggi, proprio pochi minuti fa, l'impianto dell'azienda 3Sun, che è una joint venture paritetica tra Enel Green Power, Sharp e ST Microelectronics. La parte forse più interessante di tutta questa giornata di inaugurazione è che qui si tratta di una vera e propria riqualificazione industriale, perché qui in questo stabilimento dove si produrranno questi pannelli era previsto un altro stabilimento industriale della ST Microelectronics, poi bloccato a causa della crisi globale, e quindi una buona occasione per la Sicilia, per tutti i lavoratori siciliani, di entrare in un mercato che ovviamente ha grandi speranze per il futuro. Entro la fine del 2011 questo impianto arriverà ad una capacità pari a 160 megawatt all'anno, che potrà poi essere incrementata fino a 480 megawatt all'anno, quindi arrivando ad essere il più grande impianto di produzione esistente in Europa. La destinazione di questi pannelli è quella ovviamente del mercato italiano, ma anche di Europa, Medio Oriente e Africa. Per il momento è tutto. Grazie a Laura Bettini. C'è anche Francesco Chirillo, il presunto boss dell'Andrangheta di Paterno, Calabro, Cosenza, tra le tre persone arrestate stamane dalla direzione antimafia di Catanzaro per l'omicidio di Carmine Pezzulli nel luglio del 2002 nell'ambito della guerra di mafia tra le cosche cosentine. L'operazione di stamane è una prosecuzione dell'operazione Terminator partita nel 2008. È in corso una perquisizione dei carabinieri di Ascoli a casa di Salvatore Parolisi, il caporal maggiore dell'esercito accusato dell'omicidio volontario di sua moglie Melania Rea, trovata uccisa il 20 aprile scorso nel Teramano. Più passa il tempo e più diventa difficile trovare testimonianze che attestino che il 18 aprile scorso Melania Rea fosse a San Marco nell'orario indicato dal marito, fanno sapere gli investigatori di Ascoli. Ha dedicato il premio alla sua città, Prato, Edoardo Nesi, vincitore dello Strega 2011. Il suo libro Storia della mia gente racconta la crisi economica del distretto tessile pratese. Il romanzo si apre con la vendita dell'azienda di famiglia. Perché si è arrivati a questo? Sentiamo Nesi al microfono di Alessandra Tedesco. Perché le condizioni del mercato sono diventate estremamente difficili, ma non a causa di un problema interno dell'azienda, ma di un problema esterno, del fatto che la globalizzazione, l'apertura dei mercati, presentata come una grande occasione per tutta l'Italia, una specie di panacea, invece aveva colpito duro su tutte le aziende manifatturiere d'Italia, e zone in crisi dove invece le aziende prima andavano bene. Ma qual era il problema? Il problema era la concorrenza che arrivava dai paesi stranieri, per esempio la Cina? Sì, soprattutto. E poi soprattutto anche il fatto che sia i nostri grandi economisti, dico grandi tra virgolette, non so se sono sentite, sia i nostri politici che andavano a ruota di questi economisti, continuavano a raccontarci un'altra storia, una favola, l'idea che la globalizzazione ci sarebbe servita perché noi avremmo venduto ai cinesi, quando invece i cinesi non sono corsi a comprare il Made in Italy. Vi segnaliamo che ogni venerdì in edicola con Il Sole 24 Ore ci saranno i capolavori del premio Strega, 50 libri che hanno vinto il prestigioso premio letterario dal 47 a oggi. Il primo volume in edicola oggi è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, premio Strega nel 1959. Nuova strage negli Stati Uniti, dove un uomo in Michigan ha ucciso 7 persone, fra cui la figlia di 10 anni e un altro bambino. Poi ha preso alcuni ostaggi e si è barricato in una casa, quindi si è suicidato. L'uomo, 34 anni, accusava disturbi psichici da quando aveva lasciato il carcere nel 2005. E in Texas alle 2 di questa mattina, ora italiana, è stata eseguita la condanna a morte per un cittadino messicano. Neanche Obama è riuscito a fermare l'iniezione letale. Mi dispiace per quello che ho fatto e viva il Messico. Queste le ultime parole di Humberto Leal Garcia, cittadino messicano condannato a morte per l'omicidio di una ragazzina di 16 anni. Dopo la condanna, la sua nazionalità era diventata un punto chiave. Garcia, secondo gli avvocati, non era stato informato dalla polizia del suo diritto di chiedere aiuto al proprio consolato. Casi come quelli di Leal c'erano già stati, ma questa volta interviene anche l'amministrazione Obama con un ricorso alla Corte Suprema. L'esecuzione, sostengono, non rispetterebbe i trattati che impongono la revisione dei casi se sono violati i diritti consolari. Per questo motivo, la settimana scorsa era stato chiesto un rinvio così che il Congresso potesse varare una legge apposita. Ieri però la Corte Suprema si è espressa contro il ricorso e con 5 voti contro 4 ha dato il via libera all'iniezione letale. Ora il timore è che gli americani arrestati all'estero possano vedersi negati a loro volta tali diritti. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR 24, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.